Buongiorno e buona domenica, lo fanno a todos. A todos, buona domenica, lo fanno. Buongiorno, buona domenica anche a te. Franco la Sassari. Sì, un attimo che sono sistemata una cordatina. Tu mi dirai dove sei. Sei qua. Ecco. Il segnale è molto basso, sei sui 2-3, la radio sui 3-4, non di più. Dove sei? Perché io sono negativo verso quella parte, quindi tienila con la dovuta, insomma, e con le molle, dai, questo segnale, ok? Ti aspetto un po'. Ciao Franco. Chi è? Buongiorno. Il tuo vicino, Cavagala. Oh, ciao Natalia, ben sentito dopo tanto, dai. Come va? E adesso bene. Sono finito solo due volte in sala operatoria quest'anno. Dai tu, che cavolo. Ma è importante che sei qua ancora con lui. Niente di grave o qualcosa di preoccupante? Grave era. E allora è importante che hai risolto, dai. Comunque, buona domenica delle palme anche a te. Grazie altrettanto, Franco. Grazie. Comunque ti ascolto benissimo, eh. Ultima radio, guarda, il segnale non fa testo, mi stai facendo fare due giri dello Smithers. La radio, guarda, così com'è. Bella, bella, chiara, tranquilla, senza fronzoli. Perché questo è il microfono di Tina. Che microfono è? Il microfono di Tina è. Cosa vuol dire? Turner. Ah, il Turner più 3? Sì, quello grigio è però. Sarebbe quello più antico. È scritto in americano qua, Turner Blue 3. È più 3, dai. No, esce bene, caspita, chiarissima. E adesso l'ho abbassata, perché forse era troppo forte. No, bene, è chiara, non andava in distorsione niente, era perfetta. Anzi, è perfetta anche adesso. Sono contento, l'amplificazione ci sente, sì. Sì, ma non eccessiva, non ti porti rumori di fondo, niente. Bella, bella modulazione. Grazie. Adesso ho sentito un po' di voci, forse ha parlato qualcuno. Mia moglie. Auguri anche a lei. No, una bella radio, complimenti. Dove l'hai trovato? Online o qui a Sassari? No, è stato un regalo, me l'ha regalato un amico che non c'ha più niente e gli era avanzato questo, me l'ha regalato. Bel regalo, là. Si è andato bene. E invece come casa non omologato sempre, sì. Quello nero, sto usando. Sì, vabbè. Dunque, bella copiata. Io sto facendo bene sempre, sì. Benissimo. Questi due microfoni vecchietti però funzionano sempre, là. E sto usando 4 watt, i soliti, capito? Sì, anch'io sto usando quello che 4-5 modulati, questo l'ho abbassato per pilotare la roba là. Dopo provo un valvolare, mi dice se vado in saturazione. Sicuramente ci vai perché siamo troppo vicini. No, è piccolino, Se è piccolino magari può darsi che non sa. Cordatina. Io mi sono saturo. No, negativo, qua non saturo. Avanti il pischio. Mi senti ora Franco? Sì, adesso la radio è un po' più forte, più spinta. Campo positivo, vai. Dimmi una cosa, segnale fa. Aspetta che devo mettere via avanti. Vedi un po', 1, 2, 3, prova il microfono. Si è aumentato leggermente, sei sui 5-6 modulati. Va bene, dai. Come arrivo lì a Platamona? Va bene Franco, va bene, io sono un barattino piccolino e quindi non è che possa andare dritto, come quello che ci arriva a 5-6. Va bene, guarda se scende di moto adesso. Vedi un po' se scende di moto. E adesso la radio è rimasta uguale, però il segnale non c'è. Ok, va bene, dai, quindi già funziona questo vecchio valvolare. Avanti la perizia, lo senti meglio tu perché tu c'hai l'antenna sul tetto. Io lo sento bene, Santiago 7 arriva qua. Non so se mi ascolta lui però. Sì, che c'è Quercia, come stai? Ciao Natrino. Ciao, ben sentito. Aio, buongiorno, cazzo, un ruolo anche mio. Buongiorno a tutti, dai Tino. Non so che sei Tino. L'importante è che arrivo, perché mi stavano dicendo che a Platamona arrivavo basso. No, la verità, sono a casa, però ho piazzato l'antenna, la TLC 2001 in un container, dai, stavo guardando se c'era la testa, ma credo che sia la macchina la pipigella qua. Beh, rispetto al tuo segnale non c'è paragone. No, non per lasciare stare il mio segnale qua, uno è avere l'antenna a 12-15 metri dal tetto e l'altro è per la... in macchina, capito? Infatti pensavo fosse in macchina veramente. E lo so, però come dice, perde parecchio. Dove ce l'hai l'antenna? È aperta, anche se passa, diciamo, sul container. Sì, sopra, dai. Non è piano, io fianco, anzi centrale. Comunque, io ti sento, Natalio ti sente anche più forte di me, va? Lui è un po' più avvantaggiato di me, c'è l'antenna un po' più alta, dai. Sì, non ti crede, fra. La mia pure è bassa l'antenna. Sta piccolo, quindi sta spingendo anche dai Pino, guarda. Adesso provo a attaccarlo. Sì, ti sei abbassato sia di segnale che di radio. Lasciamo così allora, non ho controllato niente da canale, guarda, quindi sto modulando ma non vedo niente, adesso provo a verificare tutto ciò. Ok dai, rimane ancora lì, mi è giusto per qualche prova. Capo, anche io sto per uscire, quindi un abbraccio, buona domenica delle Palme, anche a te e alla tua famiglia, e un abbraccio anche a Natalino, alle prossimine, ok? Riprendi Natalino. Ciao Franco, allora ci stai riuscendo, ciao Tino, anche io faccio pure il ripiedare, alle prossime. Va bene, ciao Natalino, ciao, buona domenica, buona domenica alle Palme anche a voi, ciao. Grazie, ciao. Bene, segnale 5, dove sei? A casa, va per passo, vero? No, ti ascolto bene la radio. Basso, sei più basso, due di segnale. Vabbè, là. C'è stato un pirino, capito? Io ti ascolto, tu mi ascolti, sì. Santiago 7. Gappa. Va bene. Ti sei fatto un antenino tu? Guarda se cambia qualcosa, Lu. Così ha cambiato qualche cosa, guarda un po'. No, sempre 5 segnale. Aspetta, adesso così, 1, 2, 3, prova. No, sempre uguale. No, la radio, perché cazzo qua c'ha dei tasti. Guarda se sparisco. Adesso sì. Sei sparito, è brutta la radio. Ah, ok, era il canale di sotto, allora. sparito, è sparito. Bene, ho capito, allora dai, aspetta un attimino. E invece così cosa cambia? Anche le frite? No, è sempre uguale. Aspetta, 1, 2, 3, 4, così invece? Un po' aumentato. Ha aumentato un po', oh. Sembra più forte la radio, sì. E invece così, questo modificato non lo ricordo, ho capito. E va bene anche così, sì. Ma ha cambiato così. Guarda, questo qua è il primo passaggio, 1, 2, 3. E questo è il secondo, 1, 2, 3. No, uguale, uguale. Bella, sia una che la prima e la seconda, uguale. Va bene, dai, devo mettere di nuovo un piccolo alimentatorino e l'amplificatore, perché non sto andando. Sì, mi sono andato qua a vestirmi e sto andando in campagna. A cambiarmi, dai. Ehi, no, va bene, io sto facendo l'impianto qua. Andare, buon divertimento allora. Buona domenica delle Pasque. Grazie altrettanto, delle Palme, delle Pasque, ciao. Oh, guarda, parlamento per essere attento, ok? Sì, io sono a 30, 40, 50. A Trento, ciao, ciao, divertitela, buona rottita. E io, ciao, ti grazie altrettanto, ciao, bello bene. Ciao, ciao. Attenzione, canale 10, qualcuno fa un controllo? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno fa un controllo? Allora, io bene, tu come va? Tutto bene, tutto bene. Oh, via, via. Ehi, ehi, ascolta, sto usando il K, va bene, sì, voce bella, segnale, ce n'è, sì. Allora, va bene, era un po' in letargo, stavo usando sempre il Galaxy. Com'è, com'è, va bene? Va bene allora, già va bene. Ascolta, se sollevo un po' di più la potenza. Vediamo così, ci arriva 9,5 abbondante o è sempre uguale? Ma per oggi, ascolta, i picchi sono positivi, sì. Sono positivi? E se vai avanti la lancetta quando parlo, quando fischio. A me mi dà negativo, ciao qua. A te ti dà negativo perché il baracchino è così. Infatti ho chiesto a lui perché lui sta usando un K. Ma che con Galaxy me lo dai? No, dovrebbe essere entrato a Torino. No, qua sta segnando positivo. Vai in avanti, avancetta. A me mi dà, vabbè che ho lo smette la mano, questo precedente. 7,9 a negativo 8. Sì, io ho detto Santiago 9, ciuccio. Adesso è un casino regolante lo Smith. E questo è avaro dall'inizio, lo so. Il Galaxy è più perfetto invece. K che ti ascolta, buonasera anche a te. Non ho capito chi sia. Quindi arrivo anche a Bonotor, se andare, ciao Gilio. Mi hai sentito, con questo apparato ti sento bene, raga. 1, 2, 3, prova di modulazione. Avanti. Faccia, va bene allora, che cavolo. Claudio, mi stavo azzuffando fino a poco fa, mi sono rotto le balle e ho chiuso tutto. Ecco che cosa, non ho capito. Volevo attaccare il Tarne qua. Niente, non ho lo spinotto. Volevo smontare questo, ma questo qua è del mic originale, il presidente c'ha uno spinotto talmente particolare che devi tagliare un cavo, perché è fatto su stampo, un casino. No, ma sempre a 4, domani a lunedì te lo compri, cos'è la prima frutti. Lo so, infatti ho deciso di comprarlo domani, ma mi sono messo in testa in Piazza Meluccia, almeno ho detto che compro domani il coso, lo metto sul mic normale, invece ho visto che smontando questo è uno spinotto particolare. Niente, non posso farci niente. Non lo smonto quello del Galaxy. Oi! No, lascialo originale, che se no è un casino. Lascia tutto originale, ti compri un jack a 4 e te lo fai. E K. Andrà bene, avanti UG. Zona San Camillo, fuori Sassari. K. Ma di radio più o meno sei, dimmi. Comunque 5 è buona. Il segnale non te lo do perché c'è uno smith talmente avaro. Tu pensi che Claudio mi arriva a Santiago 9, cosa che mi arriva a Santiago 9,20 col Galaxy. No, cosa adesso che vendiamo le dita a Porto Torres, non ho capito come faccio le parti 9 a te. Claudio, ti ho detto, lo smite a varo su questo apparato, capito? Sì, ti ho capito, infatti ho letto già, c'è poca differenza, sì. 9,10, 9 da te. Cappa, va bene, comunque oggi confermi, i picchi sono positivi, quando parlo la lancetta va in avanti da te, su questo cappa tuo, va bene. Ehi, ehi, ehi, alcuni baracchi lo fanno. Alcuni baracchi lo fanno, per quello sicuramente la tarare lo Smith, quindi. E non riesci a tararti il Torino, lo sai dov'è il temerino? Guarda, non lo so dov'è, non l'ho mai aperto e non le voglio neanche aprire, se abbia le luci. Ehi, ma le faccio sicuramente. intrecciano di molte cose. Non mi ricordo che io non me lo ricordo, sinceramente, l'ho avuto tanti anni fa con la radio. Non lo ricordo, ma qualcuno che l'ha avuta più recente, prova a chiedere a Giulia Mele, se si ricorda, perché ce l'ha avuta anche lui con la radio. Non so. Scusa, perché se lo cerco su internet non lo trovo. Ehi, già lo trovi. Infatti, e vabbè, io non so di quelli che vanno su internet. A me il telefono mi serve e mi piace solo per rispondere, basta, non sono amante di internet io. Quindi manco pensavo ci stavo. E io cerco tutto, quando mi serve qualcosa che non so, faccio prima, anziché attaccare un computer, ma carità, forse mi rivolgo il telefonino. Avanti oggi. Però internet usato nella stessa maniera, io sono contro internet, contro i social, contro tutto, però internet usato nella stessa maniera fa anche bene. Beh, io la stessa cosa ti dico, io non uso internet per quello. Sì, anch'io guardo qualcosa nel telefonino se mi serve, ma nel senso che non mi interessa Facebook, non mi interessa niente a me, capito? Tutte queste cose mie io non mi interessa, vivo in un altro mondo. No, poi io su Facebook mi interessa più di tanto. Io lo uso spesso, volentieri, per sapere qualcosa in più su qualcosa che mi interessa sapere, basta. Faccio una ricerca. Molte volte sono andato sulla scienza, sui buchi neri dello spazio, mi è interessato molto e sono entrato lì e ho guardato qualche filmato bello. Ah, capito. Va bene, che va bene. E a me oggi, com'è la situazione al porto? Tutto bene? I tamponi continuano, le cose si allungano. Ciao Claudio, alle prossime, ciao. Ciao, torniamo alle prossime, avanti oggi. Ciao con lui, ci sentiamo, ciao. Oh yeah, la giugna, questi giorni soprattutto il fuoco. Mamma mia, come sei rubato, la primavera, è inizia a tagliarmi le gambe, mi basta tutta la fantasia, per quello che voglio finire in fretta, perché sennò poi, finito. Io ce l'ho il PS50, io ho il PS50, la radio e la colonna esterna l'M60. Prendevo subito a quel prezzo, io l'avevo pagato un po' di anni fa, 150 euro. Il ferro è Rodrigo, però è di linea, è il suo, è grigio perché c'è il colore della radio. Ferro è Druda, proprio non va nuda, un pulsante per accendere la scritta, basta, però è efficace per quella radio, è nato con quella radio, capito? Con questa, insomma, con le radio, con questo tipo di radio qua è nato oggi, funziona molto meglio. Non fa dei rumori, è trasformatore, c'è la ventola sua dentro che si accende quando l'alimentatore scalda, che scalda proprio praticamente zero, è un'altra duba. Non lo so, guarda, io non lo cosa, diciamo, 15 euro, il suo, grigio, cioè il pulsante, il logo rosso, e sotto una scritta che è del PS50. Adesso ve lo fa anche l'ordine. È nato per quella radio, quelle 430, 440, 140, 70, è nato per quella radio lì, infatti c'è la stessa altezza, stessi piedini, è uguale, è l'alimentatore di linea, però la radio va molto bene, capito, perché lo porta bene. Sì, 25-30 di picco, sì, l'altro è 20-25 di picco. Sì, c'è una differenza di 5 ampere tra il PS430 e il PS50. Uno è 20 ampere, 25 di picco, l'altro è 25 ampere e 30 di picco. Vanno bene tutte e due. Sì, va bene, oggi è solo mezza storia, capito? Quindi se lo devi prendere per quel prezzo, prendilo tranquillamente. Silenzioso, e io vedo silenzioso, sì. È silenzioso, manco lo intendi, vedi se la luce rossa accesa e buh, non fa rumore, si è trasformatore, ha le pesanti. Quello trasformatore vanno dagli occhini in su. Quello trasformatore? Ho detto, quello trasformatore vanno dagli occhini in su. Sì, però quello è bello. È bello nel senso, non è bello di figura che non va nuda, però è bello perché funziona bene, aveva l'alimentatore suo di linea, capito? Io ce l'ho da sempre. Ne ho avuto due mi sembra, o due o tre, se non mi ricordo. Ce l'ho di nuovo, mi era capitato, l'avevo ripreso, però l'avevo pagato un sacco di soldi, 150 l'avevo pagato, ma tanti anni fa, a quel prezzo li prenderò alla grande subito, immediatamente. Questo qua è di Roma, si chiama Giorgi Lardi, di Roma, è privato, non è la negozio. Che i privati non sono negozio, non ne vado di più, chi ce l'ha sono tutti privati, capito? Quindi lo prende oggi, che va molto molto bene, va molto molto bene. Se voglio eliminare un peccato, un ufficio, un ufficiale, fa calzare, se te lo controllo, e si accorre il calzare, e fa. Perché tu c'è quell'alimentatore che quando schiaccia la ventola si aumenta la velocità della ventola, no? Sì, sì, guarda, no, io ho quello che la ventola sempre fissa, mica senti il rumore di ventola, ma magari se la senti lontanata, ma perché c'ho altre cose accese, se no non è come te lo do io, tu parli in elicottero. Allungato il filo dell'apparato, però si è parlato tanto e si aggirava quasi, si aggirava il disco con la luce delle condizioni, la giù la giustina, la mia condizione. Ha detto, no, si più allunghi il cavo di alimentazione, per portare dall'alimentatore alla radio, se lo allunghi molto, c'è molto assorbimento, ti si abbassa la luce, più corto è meglio è. Ma guarda che quel cavo rosso e nero, quello lo conservi, hai capito, quello lo conservi quel cavo, perché l'alimentatore PS50 c'è il cavo suo che esce da dentro l'alimentatore e va direttamente alla radio, c'è il connettore suo, ma grosso però, ma prima è venuta lì sono. Il connettore suo, cioè per tanto posso levare il capo della notazione con dall'alimentatore esce già il cavo con lo spinotto che va sul K, già pronto, hai capito, fatto apposta, di quel cavo che stai usando adesso non ti avrebbe un nulla. Cioè, il cavo RTX vuol dire cavo trasmettitore, no? È già attaccato all'alimentatore, esce da dentro, parte direttamente dal trasformatore, non perde niente, è un ottimo alimentatore, è professionale, è proprio alla grande, capito? Tu quello lì lo pieghi e lo conservi e attacchi la spina dell'alimentatore del PS50 alla presa 220 e poi c'è il suo cavo che va direttamente alla radio, corto, piccolo, perché va attaccato, capito? Va di linea, va attaccato alla radio, no? Va canonata. E se vuoi ti mando la foto com'è. Ma non ci fa la foto, c'è la foto su internet. No, lo so, lo so, lo dico. E quel cavo lì lo prenderò col selfie. Non ti serve più a niente. Nell'alimentatore c'è già il cavo suo di linea, capito? È professionale, bello grosso, a quattro cavi. A quattro cavi, bello, tutto praticamente tutto gommato, tutto rivestito, bello, molto bello, nel senso che il suo è originale Kenwood, capito? Fa linea con l'apparato, Eugenio, se vuoi tanto ti mando la foto, io ce l'ho così, io ce l'ho l'alimentatore, ho il PS50, il 430 la colonnina, tutte e tre attaccati. Fa linea, è l'alimentatore di linea, capito? Come riesco a mezzo, io faccio via la mia moglie. Io, questa parte, vabbè, io ero da stamattina acceso, comunque, volevo informazioni, se io l'accendo, se lo metto a modulare, non è che lo brucio? Assolutamente no, assolutamente no, però c'è poca potenza, capito, pochi watt, due conversioni così, 140 e 70 sono così, quando lo accendi e vai a trasmettere, c'è pochi watt, pochissimi watt, devi lasciarlo un pochino acceso e poi si stabilizza, capito? Mentre il 430 e il 440 no. Sì, non fa niente, anche se inizi a parlare subito, aspetta qualche minuto, insomma, ci vuole aspettare 10 minuti, aspetta qualche minuto che si assestino un po' la parte soprattutto del trasmettitore, come sottolinea di quella roba lì, e poi vai, però sappi che se ce l'hai a 20 watt o a 10 watt quando è caldo, a freddo prima di scaldare avrai 3, 4, 5 watt, non di più. Io di solito rientro quando lo lascio acceso un po' il giorno, rientro da lavoro, lo accendo e poi io so farmi la doccia, mi cade tranquillo e poi mi fa un guaccio. E io lasciavo acceso il cazzo di oggi. Quando rientri da lavoro, tu la prima cosa che fai è appoggiare la chiave della macchina e accendere la radio. Ok? Hai, ti sistemi tutto e poi entri tranquillamente a parlare, poi già si stabilizza da solo. Quando fai 2, 3, 4 passaggi, lui si assesta subito, non è che deve agitare 2 ore, no? Non le fa niente, assolutamente. L'importante è che non tocchi la potenza a freddo, capito? Non regolare la potenza a freddo perché le fa solo male. Lasciamo stare così, già si stabilizza da solo, puoi parlare tranquillamente. Non la so cosa toccare, tu vuoi che la toccare, no, no, no. È così come me l'ha trovato, ma così è, non ho mai toccato niente a qualcosa. No, già va bene, lascialo così, non ti preoccupare. Quando entri, anziché avere 10 watt, ne avrai 3. Però fai un paio di passaggi, già si stabilizza da solo, non c'è problema. E anche non è un problema quello. L'unica cosa che ho toccato non ce l'ho tutto di mettere il mattino in amarezza, però questo maestro, boh, cioè, non ho toccato altro. Allora è bellissimo, alla grande, io vabbè ce l'ho a 2, perché questo non c'ha lo slider, c'ha il potenziometro, ce l'ho a 2, come lo premo sempre, con 430, già va bene la radio. Ha voglia, ha voglia. Ma io, il mio si porta dietro un sacco di rumori, cosa ha detto? Ah, non le fa niente, già la coppia, quando parla la coppia, Eugenio, non le va di nulla. Non le fa niente, assolutamente, futidini. Però se ti prendi il PS50 va molto meglio, capite? Più pulita la modulazione, poi lo porta anche bene la radio, sono fatte apposta con gli alimentatori. Ok. Non è stato un problema di portarla a radio, c'è stato un problema di portarla qua, sulle 16 di agosto. Lo so, non solo in trasmissione per gli altri, ma per me non dà nessun fastidio perché sono abituato. Però il problema è che ti dà fastidio a te lì, anche in stand-by, senti che sta goccia, una rottura di balle, te lo so. Ma tu lo fai vedendo, se tu non lo fai vedendo, vuoi fare e c'è un tenendo buco, sì, così stamattina un altro mi ha chiamato, non so cos'è lui, ah io non sto prendendo niente, assolutamente no, no, io ho il Boxer da 50 ampere, poi ho il Diamond da 60 ampere e poi ho il PS50 da 25 ampere, assolutamente, non ho l'alimentatore da prendere, io c'è, se no te l'avevo in dubbio. No, no, era così per favore, perché ho sentito, non mi ricordo nemmeno come la guerra. No, no, io vabbè, fanno in fretta a dire, anche l'altro giorno mi ha chiamato uno, e so che stai bene io, ma vabbè, te hanno informato male a te, io mi ero di immaginare in dubbi, già erano lì che mi ero in dubbi, durante l'anno scorso io ero tutte le radio, l'ultimo 140, l'ho volato al massimo, quello che c'è, quindi, 140 e gli altri me li ho tenuti. C'è solo il 430 e me lo sono tenuto perché l'ho mandato al centro assistenza a fare mettere tutto in linea, tutto a posto, me lo sono tenuto, ma basta, ne tengono solo, dice no, gli ho fatto la regolazione. Ma c'è una prima cosa, mettere in linea cosa significa? Perché ci vuole fare in frequenza, no? No, mettere in linea nel senso fare un po' di allineamento, un po' di cose, io ad esempio quello che c'è tu è tutto allineato, perfetto, perché arriva la centro assistenza, eccetera, ma è molto più nuovo quello lì di questo, ma manca paragone, questo io l'ho comprato 10 anni fa, non gli ho mai fatto niente, mi hanno cambiato solo il display perché si è bruciato l'ultimo decimale, una volta qua a Sassari, non è che era fuori frequenza, andava a metterlo in linea, nel senso hanno cambiato tutte le spinette, un po' di carretteria, l'ho fatto fare tutto un allineamento completo, capito? Adesso è a posto e me la sono tenuta. Ah, ok, ok. Sapevo che significasse che ci voleva il frequenza, invece di 27,75 iniziava 27,76, queste cose qua. Ah, ho capito. No, è difficile che vanno così, puoi variare tra una radio all'altra di qualche hertz, ma quando parliamo di megahertz allora c'è qualche problema, allora l'ho mandata a sistemare, ma se si parla di hertz, capito, non è niente. No, no, la mia è a posto, va benissimo, alla grande. È che ogni tanto devo darle qualche colpo perché si spegneva. A volte mi mancava la ricezione, a volte addirittura non accendeva, toccava pigliare la coipi. Allora insomma mi sono stufato e alla fine il tecnico stesso mi ha detto che c'erano tutti i connettori, tutte le spinette, un po' di carretteria da cambiare, capite? Siccome ci sono i kit che non è che si trovano molto facilmente, ma lui li ha trovati, me li ha messi tutti nuovi, mi ha cambiato qualche resistenza, qualche condensatore, mi pare qualche integratino, insomma. L'ho messo a posto, oggi dai, sai, quando entra, non metti che andrò la macchina, entra dal meccanico, mi ti fate le dosi necessarie, va. Ehi, ehi, ho capito, andate, ma non so fare quello, era una mia curiosità, capire cosa significa questo allineamento. Andate. Beh, l'allineamento ogni tanto l'ho fatto. Soprattutto queste radio vecchie hanno la storia sulle spalle, fino a quando funzionano bene, poi quando iniziano a zoppicare, se non le mandi subito dal medico ti lasciano a piedi, capito? Scusa, questa ci tengo tantissimo, intanto perché è nuovo, ma poi abbiamo ricevuto il mettitore favoloso il 430. Ma sono fatto tutto dare una sistematina e basta, me la tengo, me la sono tenuta, va. C'ho la rematratore, la radio e la colonna esterna con il 60 oggi e basta. E poi il Galax mi sono tenuto, le altre le ho tutte vendute, tutte. Come sarebbe la colonna esterna, tutto allineato, diciamo, colonna, apparato e alimentatore. Comunque, ti volevo chiedere un'altra cosa, non sono fissato. No, mi ha mandato un messaggio a Massi, che l'ho cercato, aspetta. cambio, cambio, cambio, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cambio, cambio, 1, 2, 3, cambio, cambio, 1, 2, 3, cambio. Aspetta a vedere se ce l'ho oggi la cosa. Ma sto cercando. La, come si dice? La foto di come viene bellina. Ci ho dato già insieme 10, poi già. Ok, io ti devo lasciare, va. Ci sentiamo lei stanotte, devo andare a lavoro, so già siamo amici, non ho accorto. Vai, oggi tranquillo, non ti preoccupare, già sono qua, ci aggiorniamo stanotte, stasera. Ciao. Allora, ciao qua, ci sentiamo, c'è su vostro lavorare, ma ti chiedo, ciao. Attenzione, canale 10, cambio. Rettebara. Ecco, allora avevo aperto questo microfono perché mancava il coso. Adesso l'ho messo lo svizzolo, cavolo, e la cosa quanto è più morbido il tasto, non fa più male, adesso perché è un bel duro questo microfono. Perché c'è una lamella dietro, quando tu premi il pulsante la lamella va a toccare il PCT, capito? Ho capito già, provi a stare attento perché lo svito è corrosivo, e se no succede come è successo a un MB5, cerca di non farlo toccare nei cosi. Lo svito è oleoso, sì, ma è anche antiossidante, quindi è corrosivo. Se abbasso il circuito stampato, rovina il circuito stampato del microfono. Ah, oh, ma non l'ho messo nel circuito stampato, qua, l'ho messo appena nel PCT per farlo scorrere bene, capito? Tutto lì. Beh, però stai attento perché lo svito l'ha svito. Lo spray per contatti è una fregosa. KK. E quindi com'è la situazione? Sì, è sempre la solita la situazione. Oggi sarebbe stata una bella giornata per andare a fare sui giro fuori, ma visto e considerato che siamo in arancione, e più che a Bussudora e Piazza Mona non puoi andare. E secondo dove vai a Piazza Mona è comune di Sorso. Ma tu stai già sbagliando. A Portatore non ci puoi andare per niente, ma che non è una motivazione valida. A Platamona puoi andare solo alla rotonda centrale, dove c'è la torre non ci puoi andare perché lì è comune di Porto Torres. No, quello è il comune di Soso, la rotonda mi sa, è il comune di Soso, adesso non so come l'avevano diciamo risolto il problema, perché una volta avevano messo la multa ai vigili di Sassa dalle macchine che c'erano, il comune di Soso aveva fatto causa dicendo che praticamente quello era comune di Sorso e dovevano tornarli tutti i soldi delle multe. Sì, vabbè già, sa fare le dread, ma non è così, ma fottidini, ci ho lavorato io. La marina di Sorso parte da dove c'è il primo pettine, capito? Da lì parte la marina di Sorso, la rotonda centrale è comune di Sassari. Quindi le multe non sono state messe alla rotonda centrale, ma sono state messe dal primo pettine in poi, quelli che praticamente erano nella strada, e lì non si può parcheggiare. Capito mi hai? Tranquillo che è così. Comunque a prescindere è un casino, si può andare a Lugo e si abbia ancora. No, mi sa che sino a 350 abitanti si può andare. Però cosa fai? Ti sposi, poi hai sempre la paura di sbagliare, magari capiti in un posto che appartiene a Sosso, se sei sapere di tutti. Non c'è, puoi spostare tra comune, quindi non mi chiedo che sei 5.000, 3.000. Io per poter andare a Porto Torres devo avvisare a mia mamma, a mio fratello, fare l'autocertificazione, dichiarare che sto andando da loro, capito? Altrimenti non posso andare più che nessuna parte, infatti noi siamo andati in campagna e c'è il biglietto luci. E adesso sono a casa e rimango a casa, basta così. così. È una bella giornata oggi, è una bella giornata per andare in campagna. È bella. Caragava, vabbè, dai. Interessante che sia una roba di questo microfono che l'ho tutto bello spruzzato. Mi a me, mi. Già stai andando bene, già stai andando bene. Sono tornato. Vuoi la Turino? Vuoi già. Niente, tutto fatto. Lenzuola cambiate, invece la matrice, a lavaggio e via. Anda bene. Io anche già se sono buccato la stamattina, adesso me lo ritiro. Ma io lo eravamo domani con calma, mica devo trovare tanto male, ma. Caragava, e vabbè. Già va bene, già va bene. Con che cosa sei? Con che apparecchio sei? Col presidente. E che il microfono l'hai messo? Niente, siamo su originale, volevo togliere questo spinotto qua e metterlo al tarne e invece un cacchio. So quei spinotti mi pare in blu, un po' antichi, te ne gioco. È fatto su stampo, praticamente devo tagliare il cavo, no, non lo taglio, il microfono originale, con lo spinotto originale, lascio stare. Domani quando vado a fusare me lo compro. E vabbè, infatti. Se no io già avevo c'è la batteria che il coso, lo toglievo dal microfono. Ne ho uno, mi pare che non funziona, se la vedrà. Vabbè, dove domani, se lo continuo direttamente fa una cosa ben fatta. E capo, no, le batterie le ho comprate, ne ho comprato due di quelle quadrate, 9 volts. Sono andato a Bricome e l'ho preso. Ho preso anche una confezione di 10 rotoli di nastro di isolante. Potrebbero sempre servire, non sa mai. 9,90 e ne ha sviato un pacco mando. Abbia luce. Tanto, ne ho poco in assoluta. C'è bene amico se presidente, anche con il microfono normale c'è bene. Chissà poi col carne come uscirà, vediamo. Avanti qua. C'è bene, già c'è bene, fidati, che l'avevo provato io. Va bene, qualsiasi tipo di turner, ma ti ripeto, va bene anche l'MBP5. Ma va bene un sacco di microfoni con quella radio. È una radio eccezionale, funziona molto bene qui. Andò bene, capito cosa ho detto qua? Che mi sono preso un piccolo stock di isolante. Ehi cazzo, come ti devo conoscere, un piccolo stock, non vorrei migliorare una mia scelta. No, no, 10 rotoli. C'era un pacco di confezioni, diciamo che conveniva, nero. Siccome lo sto finendo con una stagionata nera, allora l'ho comprato, perché mi serve. Ah beh, credo, l'hai comprato. Gianni, ma c'hai lo smitter davanti tu? Stai andando con il coso? Beh, forse anche lì ti dà picchi negativi. Io ho lo smitter davanti, ma arrivi in fondo a scala, perché questo apparecchio qua, datoti così fondo a scala. Se te lo ricordi, l'hai avuto anche tu e dicevi la stessa cosa. E io, ma c'è quel pulsante bianco già, quei pulsanti che sono vicino allo smitter, lì a sinistra. Quelli bianchi, uno di quelli funzionava da attenuatore, adesso non mi ricordo qual è. Prova! Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, uno di quelli funzionava da attenuatore, io lo tenevo sempre premuto, così è, non mi sto ricordando male, uno di quei pulsanti. Se non vedi, sì, non vedi, sì, adesso. Quello agisci off. Bravissimo, vedi cazzo che ancora ci abbiamo la memoria, ragazzi. Rincoglionito Tonino, ragazzi. Io. Capita, se c'ho questo cavolo di smitter che è avaro, coppa via. A proposito, datemi una dritta che non mi ricordo. Sotto il tarne c'è una levetta con la freccia su e giù. Uno c'è scritto electric e l'altro relay. Ma non me la metto tu. Stiamo parlando con Gianni su questa cosa. Mi sembra che lo devi tenere allora, relay. Diciamo, devi tenere, ma intanto te ne accorgimi quando lo piazzi tu lì, perché non esce il microfono. E io ce l'ho su elettriche era così l'ho lasciato. È elettronic, c'è scritto, lì lo devi mettere, è elettronic. Ascolta, ce l'ho coricato, e a nanna io sono, insomma l'ho letto a Rubicio, mi stavo facendo venire il torcicollo oggi da Miglialucci, è elettronico, è elettrico, la batte si cosa, e siamo là, mi. Vabbè, comunque già mi capito, là, è così. In avanti, no, già, la levetta in avanti, non mi ricordo adesso, perché l'ho tolto io, ce l'ho salento, l'ho tolto, ho messo la scatola al tarne. Comunque già, c'è la scritta sotto il pannello, dove c'è la batteria. Tutta perfetta, integra, non è cancellato niente, c'è tutto perfetto il suo microfono. Vabbè, dalla merda. Vabbè, se lo tieni bene, anche il mio c'ha tutte le scritte sotto, anche molto importante, capito? Perché così da originalità al microfono stesso. Se poi lo trovi tutto gratteggiato come te ne già avuto uno, tutto gratteggiato l'aveva levigato, ma dimmi tu a chi non te ne freghi le balle, non ho capito io. C'è scritto Tarne, Division, Korak, Coparition, Cheat, poi Rapids, poi IA, poi USA. E sopra tutta la maradama, scritta l'americana. Continuate che sarà ascolto, vai, mi assento un attimo. Sì, anche il mio così, c'è tutte le scritte, c'è anche un cartellino, una targhettina con delle matricole, adesso non posso mettere la scatola, se no ti avrei mandato la foto, un casino, lascia trovare una scatola, un cazzo, non messa blu, è tutto bene in bastone, che non si comprendono accidenti. Ma dimmi una cosa, ciò che ho sentito a me mi sembra strano. Un'amica mia mi ha detto, guarda che tu a Pasqua, Pasquetta, che siamo in rosso, tu puoi venire da me a trovarmi, e poi ti posso invitare a casa mia e ti fai Pasqua, Pasquetta. Ma è vero, eh? Vai, Tony, è fine, ragazzi. Non si può andare da nessuna parte, no? Se è rosso, duro, se è maforo, io bassi. Ma poi non è lungo, non si può camminare in macchina, non si può spostare. Capito? Poi io so dove devi andare, è un altro comune, non ti puoi spostare da comune a comune. Allora lei mi ha detto fai questo numero qua, io ho fatto 1500 1500. Dopo un po' mi ha risposto questo, gli ho spiegato la faccenda, mi ha detto sì che può andare, il punto è che non si sposta da regione. Adesso tu dimmi un po', infatti ho detto ma è un controsesso, se è lui è lui. Cioè sì, io non posso andare da mia madre a Portotorre, se non c'è una motivazione valida posso farla la motivazione, perché mia mamma, se tu devi andare a... già lo so dove, ma stai scherzando, per me non è così, non ti puoi spostare, capito? Non ti puoi spostare. E questo è detto, a trovare amici o parenti, uno o due persone, non di più, capito? In proprio Pasqua e Pasquetta, glielo ho anche detto, ma se sono curioso, prova a fare il tuo 1500, e quando ti rispondo di questa cosa qua, io mi devo spostare a Portotorre, se vedi cosa dice. Io c'ho la cosa che hanno dato mia figlia, c'è scritto che non puoi spostarti dal comune di residenza, dico la sia che era incoglionito, comunque lo faccio, voglio capire, perché io mi sono trovato anche al comando dei vigili e mi hanno detto la stessa cosa, assolutamente no, vuoi andare sì da tua madre nel caso abbia necessità, ma con l'autocertificazione motivata, tutto qua. Ma anch'io so così, infatti, qua. A me mi giunge strano che questo abbia detto queste parole qua, sì, ti puoi sposare. Ma è un controsenso, la tonica mia. E se ne cazzete, guarda che io chiamo il 1500 e poi mi dà una risposta. Se no che buongiorno, era qui, ci ha mai chiamato, ha detto no. Chiama davanti a me, ho chiamato, cazzo, e ha detto così, e lei, visto c'ha ragione io, ma se non ci capisco più niente. A me batto di cigolori, non ci ho preso più nulla, o sono condotto io, o sono tutte aste. Te ripeto, Tony, per me non è esattamente così, poi, te ripeto, non lo so, comunque, mi informo, ma mi sembra molto strano. Guarda, non costa nulla, fai 1500. Io comunque sono sicuro se chiamo polizia o carabinieri mi dico l'incontrare di questo che mi ha detto questo qua. Io non so se questo è attendibile, questo numero da chi è fornito e va a dire questa cazzata qua. Se è rosso anch'io lo so, ma stiamo scherzando. Eppure dici che ti puoi muovere. Da comune a comune puoi andare. Non ti puoi spostare da regione a regione. Cioè io in Sardegna non posso andare a Milano, non posso andare a Roma, capito? Questo intendono loro. Se cazzo, ma se siamo in zona arancione non ti puoi spostare da comune a comune e da regione a regione, figura di rosso. L'abbiamo già fatto, no? Siamo già stati in rosso, non penso che stavamo in giro, eh. È tutto già raddo, tutto già raddo. Sì, lo so che è un deserto Sassari, lo so, ma io sono un contro senso, no, le esposizioni sono queste, mi ha detto. Però mi dava fa culo a Gidovana, ma le fa, sono condotto io, cazzo, sarà di Genova, senso. No, comunque, per curiosità, quando c'è tempo, farò quel 1500, così vedi se tu puoi andare a trovare, capito? Perché a me mi sembra strano, che tu lo sai se vuoi, non puoi andare a Portotorre. Questo ha detto che tu puoi andare, a me pare strano. No, ti puoi spostare se sei nello stesso comune, capito? Ti puoi spostare. Capito, andare a trovare un parente dentro Sassari, ti puoi spostare, ma se ti sposti da comune a comune, devi essere un parente di casa, cioè, capito, da tuo fratello, da tua mamma, la tua sorella, però devi essere motivato allo spostamento, perché stai andando lì? Scappa, in effetti dico questo, diciamo il colore giallo sì, potevi vedere a trovare un amico o un'amica eccetera eccetera, quello spostate del comune comune, ma siamo a ragione, a Pasqua, a Pasquetta e poi tra l'altro il rosso, saranno tre giorni rossi perché c'è il preventivo, venerdì, sabato, domenica, Pasqua e Pasquetta, quindi a me pare strano. No, è così, no, affitti bene. Ha pigliato un granchio, dice, ma un granchio umano, una grabba marina ha pigliato. Vabbè, a cosa ne so, non ti ripeto, io ho telefonato davanti a lei e mi ha detto queste testuali parole. Sono rimasto di cacca, ha detto cazzo, aveva ragione Ica. Però meno, non so neanche chi è questo che ha risposto, perché ho aspettato qualche minuto prima che mi rispondesse. E tutto gentile, mica, e ho detto, ascolti, ma io abito a Sassari. Pasqua e Pasquetta so che la Sardegna diventa rossa, diventa tutta l'Italia rossa, ma io per andare da trovare un'amica in un certo paese posso andare a trovarla? E mi ha detto, certo, l'importante è che non si sposti da regione, però si può spostare da comune a comune, cioè come mai trovare? Ma è un rincoglionito, si può spostare da comune a comune, ma dove devi andare tu? Non è comune di Sassari, cazzo, ma non ho capito ancora. Ehi, gli ho detto che paese, gli ho detto tutto, ho detto, è dista circa 20-22 km da Sassari, è un altro comune, certo che può andare, ma ha detto così. Ah, pigliato una grabba marina, chi so domì, chi so pigliato una grabba marina, non un granchio, no, una grabba marina ha pigliato. Guarda, metto il generatore, chiamo, e poi ti faccio sentire la registrazione. Tu dirai, chi c'è tutto, manco, non sono da capo. Per carità, cazzo. Ogni tanto ce ne intende una. Vabbè, io so così, poi non so se abbiamo fatto qualche altro di PCM, non lo so, però io so così. Ma anche io so così, il rosso è il peggio della ragione, è proprio pericolo, quindi non si può spostare da comune a comune. Io questo l'ho sempre saputo, però chi ti dice il contrario? Io ripeto, non mi fido, perché te lo chiamerò anche i carabinieri, vediamo un po'. Ma che bel grano. Sì, ma infatti conviene informarsi da gente valida, da gente che può chiamare la stradale, può chiamare la polizia, i carabinieri, tutte le forze d'ordine può chiamare, loro sono tutto, capito? Ma quando Bonini rispondi a uno e risponde cose che non sono vere, cioè va incontro a prendere 400 euro di multa e tutto il resto, capito? Sì, ma a me se i carabinieri, la telefonata che farò, diciamo, polizia stradale o polizia di Stato, eccetera, mi dovesse dire quello che penso io, come pensi tu giustamente, che il corso non può andare sul posto di consulsi, mi hanno detto di fare questo numero 1500, io l'ho fatto e mi ha detto che posso andare. Cioè, se prendo la multa a chi mi devo rivolgere poi? A questo qua devo staccare la testa, mi dica lì. Cioè, questo glielo dico, chi è questo che mi sta rispondendo col numero 1500? Infatti conviene girare a lui poi la multa, capito? Si asciuga. Comunque informati meglio, Tony. Informati meglio. Il mio telefono è scarico, sta caricando, ma l'ho già chiamato. No, informati meglio. Fai il numero dei carabinieri, gli chiedo un'informazione, sono gli addetti, oramai è tutto un casino, capito? Sono abbastanza preparati in materia. Tu ci ha detto che puoi uscire, gli servono soldi per fine anno. Mica me la fa lui la multa. Anche te. Io non ho nessuna intenzione veramente, Claudio, di andarci. Anche io passo a Pasquetta.